saccheggiavano le nostre terre. Scacciando l'ombra ellenica e cartaginese, barbari venuti dal nord, conquistatori del sud, sconfitti e risconfitti dai Cesari, contadini romani. Ma in Sicilia arrivò l'ondata di Cristo, era il primo secolo, quei barbari dei romani crocifiggevano ancora. Siciliani rivoluzionari si infiammarono del nuovo pensiero. Tutti disagiati, poveracci ed incompresi si commossero. Per l'uccisione del figlio di Dio, questo nuovo nato in Israele, accese l'attesa scintilla per l'avvento della nuova era. E gradatamente infatuò la fede dei romani. Cattolici sono nati qui in Sicilia, l'isola del culto di Venere, fervido ideale del Cristo in croce, templi tramutati in chiese, pagani neocristiani, templi tramutati in chiese, pagani neocristiani. Agata e Rosalia, sante femministe rivoluzionarie, martiri esclusive della nostra Sicilia, precorritrici del credo che intaccò l'impero. Erano 700.000 nell'anno zero, in questa immensa isola. Prima provincia romana e prima puttana di un impero. Li bruciarono. mattina provo preoccupazione leggendo quegli scritti. Ma evviva, Porfirio prima eretica contro Cristo. Ma evviva, Porfirio prima eretica contro Cristo.